Sono stato convocato. Sono stato convocato. Che vuol dire che sei stato convocato? Ma come cosa vuol dire? Non ci vuoi andare? Dimmi che devo girare, io giro. No, devo andare. Se ti convocano, tu vai. Possiamo cominciare! Tutti convocati di Carlo Genta e Pierluigi Pardo. Sarà una partita complicata, loro sono davvero forti, però proveremo a fare il nostro gioco e come stasera e poi quello che verrà, verrà. La Spagna, se l'affrontiamo con questo spirito, non sarà difficile ma non impossibile. Sono d'accordissimo, io penso che l'Italia debba giocare come oggi con il cuore, debba correre, debba lottare, oltre che comunque praticare anche un buon gioco. Poi per arrivare in fondo devi affrontarle tutte, quindi a questo punto non vale l'altro. Si può battere, si deve battere, perché noi siamo forti e possiamo arrivare fino in fondo. Abbiamo tutte le carte in regola, loro sono veramente una grande squadra, ma anche noi dobbiamo dire la nostra. Siamo qua, cerchiamo di fare il nostro meglio, cercheremo di fare un'altra impresa che comunque abbiamo la possibilità di fare. Locatelli, Caldara, Di Biagio, una nostra copertina che precede Italia-Spagna. Ragazzi, oggi se non ci guardate, perché potete guardarci no, sulla... Siete... Zitti. Allora, sì. No, dico, se non ci guardano... Se non ci guardano, no. Se non ci guardano, cioè, no, arrabbiamo. Ma no, è finito tutto. Cioè, è finito tutto, è finito un amore. È finito tutto. Perché in studio, se non ci guardate, sulla pagina Facebook, su Facebook o sulla pagina... di tutti i convocati a Radio 24 non siete più nostri amici. C'è Pierluigi Pardo. Oggi che starò attento a non mettere le gambe sopra il tavolo. So che sono arrivate delle segnalazioni, ma so soprattutto che la segnalazione principale sarà stata mia madre, che ha chiamato in incognito. Detto, visto che non mi risponde ai WhatsApp, fategli togliere le gambe. Maleducato. Ma no, ma è proprio, sai, è l'altro cosa. Signor che io vorrei portarmi sempre un divano con me in giro per il mondo. L'altro signore che sentite e che potete vedere è Filippo Maria Ricci, appena sbarcato dalla Spagna. Buongiorno, Che buon pomeriggio. Buon pomeriggio. Nel dia della Spagna Italia, dello sub 21. Under 21. No, già ribattezzata. Chi vince Super stasera? 21. Chi vince stasera? Vince la Spagna. Ma vabbè, no, dai, come? Lui me l'ha già detto prima, questi qua sono troppo forti. Non lo so. Partiamo dal che, no? Un anno fa io avevo detto che vinceva l'Italia, no? Un anno fa li abbiamo buttati fuori dall'Europa. Le prove. E quest'anno non lo so, la vedo parecchie differenze. Saúñiguez, Asensio, De Olofeu, Bellerín, esatto. Tienen qualità, questo ciclo. Mucha calidad. Aversi... Però pure noi, dai. Sì. No, io no. Più che guarda, la qualità non è solo il problema di qualità. È qualità più esperienza. Cioè, per me questa è la differenza. Sì. La differenza, esperienza... cioè, uno come Johnny, che nessuno conosce probabilmente, sì, è terzino del Celta, ha giocato 147 partite in Liga, è comunque un buon livello, quest'anno ha fatto la sua Europa League ed è uno mezzo sconosciuto. La differenza è l'esperienza, questa è gente che gioca tanto, e uno ha vinto la Champions, gli altri hanno giocato, Saúl ha fatto dei gol importantissimi in Champions. Noi, i nostri ragazzi, la Champions però quest'anno c'è una differenza, sì, c'è questa che differenza giocano. Che è un under 21 di giocatori che hanno giocato titolari più o meno nel campionato. Però sono squadre diverse, la differenza è questa, cioè di là tu hai Saúñiguez che ha giocato da protagonista a finale di Champions League. Hai De Olofeu, che comunque è un giocatore che ha giocato da noi. Asensio, che sappiamo bene. Denis Suarez, che magari non gioca perché forse gioca Ceballos. Però Denis Suarez è un altro che era lì nel centrocampo del Barcellona. Bellerín, comunque un giocatore dell'Arsa. Dell'Arsa, ormai è una storia disperata. Però insomma, vabbè, era così, facevo autoironia. Però voglio dirti, è comunque una squadra di alto livello che ha vinto quest'anno l'FA Cup, che comunque insomma ci prova sempre. E i nostri sono buoni, sono ottimi, ma sono tutti giocatori di squadre di fascia media. Se vogliamo, togliendo Rugani, che però non è un titolare. Esatto, però, è come un po' tra Italia e Spagna, cioè la differenza che c'è a livello di campionato, no? Cioè la Spagna che vince tutte queste cose. coppe continuamente, è l'Italia che ha un buon campionato, però che gli manca qualcosa. Per me è simile, come il parallelo è quello un po', vuol dire. Per inciso, visto che si parla, lo sai anche tu dalla Spagna, no? E ne parleremo anche dopo del nostro portiere, Donnarumma, del nostro portierone. Però, per inciso, che fine fa Deulofeu? Giocatore che a me piace moltissimo. Lo ricomprano, però, lo e poi ricomprano. Tra l'altro, adesso sì, oggi uno dei due giornali sportivi catalani. C'è un termine, catalani, però, mi pare. No, sì, c'è una clausola ben precisa che gli impedisce di rivenderlo. Per cui io, a me, è chiaro che Deulofeu in questo conta poco, purtroppo per lui, no? Non è che sì. Può decidere, però se lo ricomprano il primo anno non lo possono rivendere, certo. E allora lo ricomprano, pagano 12 milioni, perché inizialmente lo dicevano, sì, lo ricomprano, poi lo rivendono, e va bene, a parte che comunque spendono 12 milioni e ne avevano, l'avevano venduto a 6, insomma, quindi diciamo alla fine il gli costa 6 milioni. Il soggetto è Barcellona, naturalmente, per sì, chi non sapesse. Esatto, e uno dei due, mi sembra Sport, oggi lo dà come sicuro, ricomprato. Però poi bisogna vedere cosa fa, perché l'attacco lì, quando tu te la devi vedere con Messi, Neymar e Suarez, no, fa una stagione da panchinaro, infatti lui non vorrebbe andare, non vorrebbe andare. C'è il mondiale, certo, Lopetegui, cioè il Milan l'ha riportato in nazionale, ha fatto 3 partite in nazionale, uno che è lì, è nel giro, e secondo me ne esce dal giro, a meno che non succeda qualcosa di clamoroso. Altro discorso che mi interessa invece, riportandoci alla partita di questa sera, quanti di questi che vedremo stasera nella Spagna sono papabili per il mondiale con un ruolo da protagonista nella nazionale? Difficile farsi spazio. Saúl sicuramente. Asensio, se fa un grande campionato, si gioca. Appunto, diciamo, se i nostri hanno giocare un vantaggio, che hanno probabilmente un pochino di concorrenza in meno da parte degli anziani. Sì. Per arrivare in nazionale assoluta, come dicono loro. Però, insomma, secondo me siamo. Il discorso che facevi prima è giusto. Cioè, noi siamo sulle tracce, sulla pista della Spagna. Stiamo cercando di prenderli. Ogni tanto. Vediamo il 2 settembre. Esatto. L'ho visto a Cardiff, è andata male, però eravamo là. Però comunque Barcellona è stato fatto fuori. Insomma, Barcellona non è del Montenegro, è della Spagna. Quindi, no, io credo che insomma siamo in ripresa, ma i segnali sono tanti, sono forti e bisogna, secondo me, anche qualche volta stasera sarebbe spettacolare. Una vittoria stasera sarebbe importantissima. Anche in chiave 2 settembre. Certo. Perché loro si sentono giustamente molto forti. In questo la Spagna a me piace, cioè è così per il Real Madrid, il Barcellona. La squadra è forte, non è che si nasconde. La Spagna vuole vincere. La Spagna si sentiva forte quando era debole. Problema è che anche noi, se quando ci sentiamo forti, le buschiamo. L'altro giorno abbiamo l'ultima prova con la Repubblica Ceca. No, vabbè, questa nazionale under 21, fortissima. Tre fischi. Ma noi non ci sentiamo mai forti, devo dire, sulla nazionale. A me è quella partita lì che mi fa un po' paura. Perché comunque è una partita che, sì, è chiaro, potevamo girarla, io l'ho vista, mi è piaciuta molto. Petagna ha avuto una grande occasione, un momento decisivo. Però è per quello che dico. Esordito dicendo, secondo me la Spagna vince, perché la Spagna insomma, a parte che è la favorita di questo europeo, lo possiamo dire senza problemi così, al punto c'è c'è chi maliziosamente pensa che la Germania abbia fatto comunque anche qualche calcolo nel volerla evitare in semifinale. È la squadra che unisce alla qualità migliore l'esperienza migliore. Il discorso che facevamo prima, perché veramente sono Ñíguez, Asensio, Iñaki Williams in panchina. È gente che ha già vissuto delle cose che i nostri notti, non hanno vissuto. Notti importanti. Allora, continueremo a parlarne tra poco. Ti posso tenere un altro 10 minuti? Ma che te ne vai? Sì, poi due e mezza va via. Noi... allora, questi che ancora lavorano è una cosa rapida, è una cosa incomprensibile. Una cosa incomprensibile. Allora, adesso abbiamo il traffico, ma poi andremo su Donnarumma 800 24 00 24, oltre a guardarci sul web, chiamateci, c'è Filippo Maria Ricci, Pierluigi Pardo, torneremo sull'argomento Donnarumma con un collega che oggi ha scritto un pezzo molto divertente sul foglio traffico. Bene. Tutti convocati. OneExpress.it, il pallet network italiano che viaggia in Europa, vi presenta. Convocati. Ci tenevo a venire perché voglio dimostrare che sono sereno, sono sto pensando solo alla partita di domani e mi dispiace che si è creato tutto questo putiferio intorno a me, ma sono tranquillo e pensiamo solo alla partita di domani e al mio futuro, si vedrà dopo la nazionale. A dirvi la verità, non me l'aspettavo, comunque non mi ero neanche accorto che erano dollari quelli in campo, pensavo erano solo fogli di carta, quindi poi ci abbiamo scherzato su dopo con i compagni di squadra, no? È durato poco perché, come ho detto prima, sono concentrato a dare il massimo per questo europeo e fare tutto per arrivare fino a fine. Non abbiamo avuto neanche il tempo di pensarci, ma sicuramente non è per il fatto della testa, perché come ho già detto prima sono tranquillo, sono qui per pensare alla nazionale e a vincere questo europeo. Allora, questo è Gigio Donnarumma, basta con Donnarumma, scrive qualcuno, va bene, abbiamo parlato tutti i giorni, anche tanto, troppo, però ieri si è presentato in conferenza stampa vicino a Di Biagio dicendo praticamente nulla sul suo futuro e dicendo appunto queste parole. Pierluigi Pardo qui con me, c'è anche per altri 10 minuti Filippo Maria Ricci, fresco fresco dalla Spagna. In Spagna si è scritto qualcosa su Donnarumma? Come? Cioè? Prima pagina di Asse Marca, il giorno del putiferio. Anche, no? Anche perché si dice che Raiola gli ha messo davanti interlocutori di due club, uno Real Madrid e l'altro Paris Saint Germain. Insomma, così ce n'è abbastanza per vacillare, no? Avendo 18 anni ancora di più. E Real Madrid è interessato, è ovvio. Insomma, dipende, sì. È alla finestra. Se cercano un portiere, hanno mollato De Gea. Tengono Keylor Navas, però sì. Chiaro, se si libera il prezzo è buono, ecco, loro sono interessati. Quello che diciamo io e Pierluigi tutte le volte, lo dici tu Piana, è che insomma vai al Real Madrid. Poi che fai, cambi ogni due anni? No ma soprattutto al Milan sei il bello, sì, de casa, no? Sì, però ci dovrà provare prima o poi, no? Aspetta, 18 anni. Chi siamo noi per giudicare? L'ha detto qualcuno un pochino più importante di me, anche di voi, penso che lo possiamo dire serenamente. La scelta è una scelta libera. Io sono, sapete, sono laico sulla scelta, cioè non ho tirato fuori discorsi di gratitudine, di moralità, di etica. Per me, Donnarumma, l'ho detto prima di successo tutto il casino, conviene firmare col Milan, magari con la clausola, magari con ovviamente tutte le garanzie. L'offerta del Milan è una signora offerta, ma c'è il professor Merlo? C'è Salvatore Merlo del Foglio, eccolo che oggi ha scritto allora io stamattina in un pezzo per Rete24 ho detto, ieri sera ricordo più, manca solo il coinvolgimento della nonna, dei nonni e degli zii di Donnarumma e Raiola, anzi Donnarumma ci sono già, mancano i nonni di Raiola, non so se ce li ha. E poi è davvero la classica vicenda, la classica pasta asciutta italiana, Salvatore? Quello che hai scritto tu oggi sul Foglio. C'ha un po' questi tratti, la telenovela calcistica dell'estate italiana, tratti da commedia all'italiana, cominciata con il papà di Montella che accompagna l'allenatore del Milan a incontrare nonna Nunzia, la nonna di Donnarumma, e quindi la pasta col sugo, quanto è bello caffè, il dolce della domenica, i baci sulle guance, e poi ovviamente sotto sotto, ma diteglielo che è meglio restare al Milan. Però questa cosa è proseguita così, io poi leggendo tutte le cronache, retroscena sulla Gazzetta dello Sport, il Corriere dello Sport, questa cosa mi ha molto divertito, e vedevo che c'erano parenti che spuntavano da tutte le parti, come i funghi, c'è la nonna Nunzia, però c'è pure il cugino Vincenzo Donnarumma che fa l'autista, l'accompagnatore, poi c'è il cognato Carmine che fa il pasticcere, che è quello che scrive sui social Milan, società di pagliacci, ma quello cancella. C'è il fratello maggiore Antonio. Il pezzo è veramente straordinario e fogliantissimo, sai che noi foglianti che lo leggiamo siamo abbastanza dei fan, abbastanza fanatici di questo giornale, ed è bellissima questa ricostruzione familiare. Però il passaggio, secondo me, politicamente più interessante è il fatto che tu dici, ed è il vero tema, che poi alla fine quello al quale cambia di meno la vita, nel senso che tanto miliardario diventerà, è lui, e che invece c'è tutto, in questo caso anche dal punto di vista familiare, legittimamente, un coté di persone, ma questo non vale solo per Donnarumma, vale per tutti i calciatori, che attraverso le scelte di questo ragazzo si arricchisce di più o di meno e modifica la sua vita, è legittima un ruolo, cioè è questo... Beh, così, cominciare dal manager Raiola, che tra parentesi anche lui cugino Vincenzo, come sì, appunto, del film, appunto, con Giovesci, cioè Raiola ci guadagna se il giovane calciatore passa a un'altra squadra con un ingaggio, perché ne riceve una percentuale. Questo lo sappiamo, però Salvatore, il punto è che lo farà lo stesso, anche se sta 2 anni al Milan a guadagnare 5 milioni l'anno, che non sono pochi per uno di 18 anni. Poi tra 2 anni se ne riparla e ne avrà 20. Ma è questo che stiamo dicendo, questo, cioè da lui non cambia nulla. Non cambia nulla, ma quello per lui, che... per gli altri sì però. Cioè, cambia per Raiola, cambia per la sua no famiglia, aspetta per Raiola, per Raiola non lo so, a parte il fatto Raiola che cambia non è che ha bisogno adesso ha preso appena preso una valanga di soldi tra cui la FIFA sta indagando tra l'altro per il passaggio di Pogba l'anno scorso. Anzi, quello che mi sorprende è che da tutta questa vicenda, te lo dicevo ieri, Raiola mi sembra, ho chiesto anche a Filippo Manerici, il pascià degli agenti, mi sembra ne esca un po' indebolito, mi sembra che sia la prima figura un po' così. Perché si è scontrato, come diceva giustamente Salvatore, con una storia familiare, la famiglia è la cosa più importante, quindi ha finito per indebolirlo, tutte queste presenze di cugini, parenti, ha finito per dare un tono di commedia. Però solo una cosa, dico, a Raiola intermettere un piede al Real Madrid gli fa piacere, finora certo. Non ha fatto nessuna trattativa. Intavolarne portare una. Questo signore già ci sta provando con Ibra, no? Ci ha provato con Ibra, sì, pare. Insomma. Era Pogba, diciamo. Però, sì. Insomma, comunque, quindi io capisco la volontà di Raiola e sono d'accordo con te che ne esce un po' indebolito. Infatti, adesso, ieri c'è stata questa apertura stanotte, no? Sì, il pezzo è bellissimo e la parola chiave è la parola famiglia, no? Questo ruolo. Io aggiungerei, chiedo a Salvatore che ne pensa, anche la parola social network, perché mi sembra che questa sia la vera prima trattativa, il vero primo intrigo al tempo dei social. Nel senso che senza tutti cortile, gli insulti, questo guarda che ragazzi 18 anni, secondo me sta roba ha inciso o no? Sì, ma a me è colpito oggi il racconto che facevano molti colleghi, esperti di sport, che raccontavano che questi social media, cioè l'account di Instagram e di Twitter, ce l'hanno in mano 4-5 persone intorno a Gigio Donnarumma, quindi ce l'avrà il cugino Carmine, uno ce l'avrà altro dell'Antonio, uno ce l'avrà il cugino di Raiola Vincenzo, cioè, e ovviamente ciascuno twitta e scrive più o meno quello che vuole e a milioni di persone facciamo un gioco tutti e tre, facciamo un gioco tutti e quattro. Allora immaginiamo di avere in mano il tweet di Donnarumma oggi, di poter fare quello che era quello vero, quello vero. Chi è che comincia? Qual è il tweet che fareste fosse Donnarumma? Forza Italia, dai, adesso siamo patriottici, oggi c'è la partita, Italia, no? Forza Italia è politico. Insomma, sono parole che apprezziamo. Bravo Gigio, bravo Gigio. Tu Pardo, che tu cosa gli fai dire? Io gli farei dire lasciatemi in pace, lo sfondano. Quindi no, forse in questo caso è meglio se sta zitto. No, in questi non casi tweet. No, fai un tweet che ne so, con una bella canzone o un bel panorama della, oppure la maglia azzurra. No, io sai che farei una foto della maglia azzurra con una parola tutti adesso, per uno col numero uno. Sole sul tetto dei palazzi in costruzione, una roba così, ci butterei un De Gregori dentro. Hai Salvatore, tu hai qualche idea? Che hai fatto fatica perfino tu. Perché oggi qualsiasi cosa scrive. Ieri sera ci aspettavamo tutti che fosse la conferenza stampa risolutiva. Comunque c'era questa possibilità. Dai, qualcosa è stato fatto. No? Sì, ma non più di quello che già si era capito. Cioè, è ovvio che ci sarà. Cioè, secondo me i tifosi del Milan. E Salvatore cosa twitterebbe? Ma no, ma io gli farei twittare la canzone di Modugno, quella Io mamma te tu, ma la finale proprio mamma te pate, to frate, to nonne, to sore, to zie, to cane, iate ven, così deve dire, compreso Raiola ovviamente. Ma per diavolo, io mi astengo in maniera totale. Oggi cambierei scenario. Oggi solo maglia azzurra. Partita, dai. Solo maglia azzurra. ho in mente solo te, no, poi sembra che non hai in mente il Milan. Esatto, no. Un anno fa una grande vittoria, speriamo di ripetere. Un anno, so. Tra l'altro, esattamente un anno fa battevamo la Spagna. Quattro giornalisti non siamo riusciti a tirare fuori una cosa. L'unico è Salvatore che ha fatto, che ha messo dentro Modugno, ma noi qua in tre non siamo riusciti a partorire un minimo di idea creativa. Nazionale, dai, sì. Tu sai qual è la mia passione per i social network. Spero in un diluvio, la stessa di Mughini, in un diluvio universale che li sommerga tutti. È mai possibile, non so cosa sia. Ormai non lo so, non ho Twitter, non uso Twitter. Anche la TV a colori negli anni 50 era visto. No, ragazzi, certo, la famosa storia della sinistra guardava la TV a colori. Ognuno ha i suoi difetti. Però mi sorprende che perfino tu invece, Pierluigi, sia stato in difficoltà nel rispondere alla domanda. No, che ma perché guarda, adesso al di là di tutto, io penso che ognuno di noi, soprattutto quelli che hanno un po' di follower, abbia attraversato delle piccole o grandi tempeste. Io sono uno che non ha bloccato nessuno su Twitter, quindi questo ti dà l'idea della mia pace dei sensi. Una persona sola è un collega. Io non ho mai bloccato nessuno, quindi perché quindi sono proprio aperto e grazie a Dio non ho avuto mai grandi casini. Ma un paio di volte ho avuto dei pomeriggi un po' complicati. Quindi immaginati tu questo ragazzo di 18 anni che di fondo, secondo me, si è fidato del suo procuratore, che oltretutto è un re dei procuratori, perché non è un apprendista, è uno dei top a livello mondiale, e si è ritrovato in mezzo alla tempesta. No, ma quello che ti domando è aprirle è obbligatorio? No, non è obbligatorio, però vabbè, puoi pure decidere che vai a vivere su una montagna. No, non è obbligatorio, no. Mi è capitato di recente che ti rompi i coglioni, ho bloccato su WhatsApp. Però è anche si può andare contro vento, ma non contro la propria epoca. Mamma mia, 30 abbonamenti al foglio, 30. subito, 28 De Luca, 28 abbonamenti De Luca. Ci va Salvatore, ci vado da solo. È vero, ci vado da solo contro la nostra epoca. Ti saluto e ti ringrazio. Questa me la rivendo, questa la rivendiamo. Ciao Salvatore, a presto. Ciao. Salvatore Merlo del Foglio. Questa è una bella storia, tremenda, questa seconda Roma, che contiene dentro di sé degli elementi. Va bene, siamo in estate, va bene, bello, interessante. No, però certo, ti posso dire, non dimentichiamoci che va bene, sarà un miliardario, lo diventerà, lo sta già diventando. Questo c'ha 18 anni, lo so. Cioè, io a 18 anni andavo in crisi per. Esatto. Pensa alla partita di stasera, anche tutto quello che. Cioè, se lui gioca bene è un conto, se lui gioca normale è un altro. Se fa qualche papera, sai cosa vuol dire? Di fronte alla Spagna. La vita degli sportivi. Cioè, c'è tanta responsabilità. La vita degli sportivi chiaro. Alto livello è una vita meravigliosa che tutti noi vorremmo fare, avremmo voluto fare. Però è una vita delicatissima, quindi assieme ai mille onori, alle mille fortune, alle mille ricchezze, c'è anche uno stress che probabilmente noi facciamo dei lavori un po' più normali, ognuno al suo. Allora, io devo salutare e ringraziare Filippo Maria Ricci. Ma che bello lavorare. Grazie a voi, ci vediamo presto. Chissà quando ti rivedo. Tu e Pardo, ogni tanto Pardo viene da te e voi fate le vostre cose. Sì. Adesso su Filippo dobbiamo organizzare un Supercoppa San Bigi. Supercoppa europea? Sì. Ci vediamo a Skopje. Ecco. A Skopje ritardato. Organizziamo un San Vigilio di Marebbe Capalbio. Preferisco sentire la borsa e abbracciare Filippo Maria Ricci in privato. Ciao. Tutti convocati. Fineco, la banca numero uno in Europa nel trading, vi presenta Tutti convocati. Allora, Giorgio De Luca è il nostro 800240024. Giorgio De Luca è il nostro autore, non è ancora presentato, non è ancora citati. Andrea Roccabella in regia, Edoardo Lavezzari in redazione e due ascoltatori in praticamente linea. Abbiamo una serie di hipster dietro la cabina di regia, tutta gente con delle barbe, tutti ragazzi un po' alla moda. Loris da Treviso, buongiorno. Buongiorno a tutti. Mi permettete una riflessione da insegnante dopo una domanda da juventino? Oddio. Nonché arbitro di calcio, quindi abbiamo fatto la frittata. Sembra tutto molto divertente. Partiamo dalla domanda. La domanda allora, il Donnarumma, non è che ci sia un gioco sotto da parte della Juve, Buffon che ha detto sto un altro anno per poi sono già d'accordo di prendere Donnarumma, visto che la Juve negli ultimi anni, correggetemi se sbaglio, ha sempre avuto il miglior portiere a livello italiano? Sì, la risposta? La risposta qual è? No, la risposta la chiedo a voi se ce l'avete. Ho capito la risposta da insegnante. Io non ne ho la più pallida idea. No, che esista una coincidenza possibile fra la scadenza del contratto di Donnarumma e uno snodo cruciale della carriera di Buffon è abbastanza evidente. Buffon l'ha anche detto, insomma, è ovvio che il mondiale del 2018, se ci andremo, ci auguriamo, è ovvio che insomma potrebbe essere l'ultimo atto di una carriera leggendaria come quella di Gigi Buffon. Quindi diciamo che la coincidenza esiste. Da qui a fare fantacalcio e dire che ci sia chissà quale intrigo dietro, no. Certamente la Juve non l'ha mai nascosto, sta attenta a tutti i grandi giocatori e chiaramente Donnarumma è un grande giocatore. E in più c'è questa combinazione, no, di date. Quindi il ragionamento ci sta. Ci levo la dietrologia, ecco, non ci vedo niente di malizioso, però che possa essere nel 2018 nei desideri e nelle strategie della Juve l'idea di sostituire Buffon con Donnarumma è un discorso che penso qualunque dirigente di qualsiasi squadra farebbe, insomma. Allora, ci resta la cosa da insegnante, no? Sì, ma esatto, io vi dico, lavoro con ragazzi di 18-17 anni lavorando alle superiori come insegnante, fanno cavolate in Facebook, in Twitter, sì. Li becchi come insegnante, li bastoni, passatemi il termine, non fisicamente, ma spiegando loro, guardate che fate cavolate. Secondo me Donnarumma ha fatto una cavolata da 18enne, non sapendo, magari non dico usar bene Twitter, però ha fatto una cavolata da 18enne, come fanno i ragazzi a quell'età, tutto qui, solo che se la fa lui, un personaggio pubblico, certo, paga purtroppo grandi conseguenze, tutto qui. In un momento come questo, no? Poi c'era qualcos'altro da aggiungere? No, mi sembra di no. Mi sembra che siamo da arbitro, non vuol dire niente. Vabbè, ci fermiamo lì. Vincenzo da Chieti. Buongiorno. Dica. Allora, stasera si vince con la Spagna. Speriamo. Seconda cosa, Donnarumma, lasciatelo in pace, da 18 anni quel ragazzo. Ho capito, ma se ha 18 anni, tutti addosso. Terza cosa per Pardo. Sì. Se mi dà qualche notizia della squadra del cuore, Palermo, com'è finito? Non è finita. Nel senso che è una delle situazioni più incasinate della storia. Della storia, sì. C'è stata una contestazione l'altro giorno, abbastanza molto civile, ma abbastanza insomma vivace nei confronti, corretta, no? Nei confronti di Zamparini e di quello che è successo, ma sarebbe meglio dire di quello che non è successo, e quindi si attende di capire. È una storia per certi versi non troppo differente da quella che stiamo per trattare. Abbiamo un Baccaglini di ieri, lo sentiamo? Il fatto che io sia qui a Palermo e il fatto che io sia qui con il sindaco, e io non ho intenzione di far perdere il tempo a nessuno, quindi se fosse una cosa che non ha un futuro e non ha un futuro concreto, non saremmo certo qui a parlarne tutto insieme. Non vedo l'ora di poter darvi la notizia definitiva del closing. Non so se arriverà quell'ora. Bah, non so. Ho qualche dubbio, ce l'ho e me lo tengo. Io saluto un nostro amico, ma soprattutto amico di Pardo. È un piacere avere Pupo con noi. Oh, ciao Carlo, ciao. Come va? Ciao Pupo. Come va? Ciao Enzo. Questo labaro viola, come sta? A proposito di società in vendita, ieri si è aggiunta anche ufficialmente alla lista la Fiorentina, quella della Valle, che hanno emesso questo comunicato. Vabbè, ragazzi, però io dico una cosa, c'è qualcosa al mondo che non è in vendita? No, nulla, ma un conto è se qualcuno te la chiede, un conto è dire questa cosa la vendo. Quindi questa è una chiara, io ho letto per bene anche stamattina i giornali, ho letto, cioè una chiara provocazione della Valle, hanno un modo di fare comunicazione che io ti dico la verità, io sono, ho molto rispetto, sono anche amico di Andrea, ho conosciuto Diego tanti anni fa, persone, cioè Firenze a livello di punto di riferimento economico non potrebbe avere di meglio, ma nella gestione della comunicazione, soprattutto nella città di Firenze, non sono al top, non sono al massimo. Cioè loro hanno mossi e interloquire con la tifoseria fiorentina e con i tifosi, che non è, è un po' come dire, allora anche questo annuncio dice la Fiorentina in vendita, e se però io chiedo il doppio di quello che vale, non è più in vendita praticamente. Poi ci vuole sempre qualcuno che chiaramente sia interessato a comprarla, e non c'è nessuno, si sa, che è interessato a comprarla. Quindi è solamente una provocazione che secondo me è un'altra, un'ulteriore mossa non eccellente proprio a livello di comunicazione, per come dire, come quando Donnarumma, parlava di Donnarumma, lo sentivo al telefono, come quando Donnarumma lo provocano e gli dicono allora o fai così o ti lasciamo in panchina. Io quando avevo l'età di Donnarumma, se volevi che facessi il contrario di quello che avrei dovuto fare, mi provocavi e mi dicevi di fare in quel modo, e io facevo il contrario. Ma è la cosa più naturale del mondo, vale nei matrimoni, se lì dico tua moglie dice me ne vado o viceversa. E Preziosi non ha fatto una cosa molto diversa a Genova, nel senso che Preziosi in un momento di grande contestazione anche quest'anno ha detto io sono pronto a farmi da parte, certo, cioè ma, è esattamente però questo. Lascia il tempo che trova, non è, me, ma non è nemmeno, ma quindi, non quindi è questi, pure la prima volta, questi fiorentini veri di cui si parla nel comunicato non ci sono. Ma chi sono? I fiorentini veri. Cioè Gianni Gnocchi ha fatto un tweet, una battuta molto divertente, ha detto e se mi gira bene una mano di poker a me magari la compro io la fiorentina, no? Non sarebbe male. No, aspetta, però io ho smesso di giocare da tanti anni, uno lo sa. E proprio per questo oggi ho più soldi di prima, magari ci penso. Certo, lo ricordiamolo, poi ognuno fa quello che vuole nella vita, ci mancherebbe altro, che insomma mediamente si perde, no? Cioè chi poi sviluppa una ludopatia poi alla fine finisce male, quindi l'invito nel rispetto della libertà di tutti è non farsi del male, poi ognuno faccia come vuole ovviamente. Allora l'invito in questo campo è assolutamente... il poker è un gioco meraviglioso, una metafora della vita pazzesca, che chi impara a giocare a poker sviluppa cervello e doti pazzesche che poi servono anche nella vita. Il dramma vero è quei cretini che vanno a giocare alle slot machine al gratis. Ecco, lì è davvero certo, che lì veramente si ha a che fare con una specie di patologia che non c'entra niente con la fiorentina, ma ci siamo entrati. No, come tutte le cose della vita, poi appunto la ludopatia è quando si supera una soglia, no? Quando però, ci si smette di divertire, intanto, diventa un'ossessione. Nel frattempo, Enzo Pupo, la società è in vendita, se è qualcuno che era, esatto, se arriva il cinese di turno, se ne parla. Nel frattempo si vendono i giocatori, perché mi sembra che allora Bernardeschi, Borja Valero, Kalinic, c'è Pardo in porta l'anno prossimo, questa te la do per certa. Anche sto cercando di ingrassare in modo da riempire completamente. Arrigo Sacchi l'ha definito lo stopperone. No, a parte tutto, sei preoccupato tecnicamente? Sei preoccupato? Allora, tecnicamente è chiaro che... Ma io non è che sono preoccupato, io sono un tifoso della Fiorentina da quando ero bambino, li ho visti tutti passare, ho vissuto i grandi entusiasmi di Cecchigori che aveva illuso Firenze, ho vissuto i Pontè, ho vissuto tutti quanti. Allora, il problema è che fin dall'inizio, quando i Della Valle hanno comprato la Fiorentina, anzi la Florenza Viola, che poi c'è stato tutto quel percorso, loro era questo che volevano far diventare Firenze una città competitiva, ma non a livello delle grandi realtà del calcio, tipo la Juventus, magari non sono arrivati i cinesi, Milano, loro volevano fare una squadra che militasse nel massimo campionato, con grande dignità, con i conti perfetti, con tutto a posto. Quindi era chiaro fin dall'inizio che come usciva fuori uno importante, un giocatore importante che fa, si prende e si vende e si realizza. Questo è quello che dovrebbero, secondo me, e se io fossi il dente batte dove la lingua duole, praticamente la lingua batte dove il dente duole, praticamente io fossi tra l'altro direi signori, noi siamo così, noi gestiamo così le nostre aziende, noi siamo i numeri uno, quindi anche a Firenze noi non possiamo buttare via i denari, i soldi, fare quello, arrivare ai livelli della Juventus, fare la Coppa dei Campioni, sperare nelle finali e tutto. Noi siamo questo, magari poi capita un campionato in cui va meglio, va peggio, la fortuna gira tutto, ma è questo che dovrebbero dire e non provocare. Guarda, non io provocare. Posso dirti, questo secondo me è l'equivoco ed è triste che sia così, che riguarda tante società che nel calcio moderno, che hanno una storia gloriosa, la Fiorentina ha una storia gloriosa, sì, il Genoa ha una storia gloriosa, la Lazio ha una storia gloriosa, il Torino ha una storia gloriosa, sono tutte squadre di grande tradizione, di grande fascia, ma che in un momento come questo non hanno i numeri e quindi poi il fatturato, sta famosa parola terribile, che così, per poter competere con le prime tre, con le prime quattro, c'è poco da fare. Avrei da aggiungere una cosa, sì, un'ultima cosa, hai 30 secondi, Pupo? Vabbè, figurati. Traffico, torniamo subito da te, io avrei un'altra cosa soltanto da aggiungere. Siete tutti convocati. Arrivo, un attimo. Tutti convocati. Breda, i portoni più belli d'Italia, sicuri e installati in un giorno. Bredaportoni.com. Vi presento. Tutti convocati. Allora, in linea con noi sempre Pupo, la considerazione che avete fatto, Pierluigi Pardo qui con me, la considerazione che avete fatto, ragazzi, non fa una grinza, cioè questione di soldi fatturato, delle cose che sappiamo, la Fiorentina non come il Napoli, come la Roma, ci stanno provando ormai da anni, è difficile raggiungere un livello della Juventus, quello che dico io è che Firenze è particolare da questo punto di vista, perché se ricordate l'inizio dello scorso campionato, quando la Fiorentina era lì con i migliori, e allora sai come fioccavano le telefonate, i messaggi e le suppliche più o meno educate, non parlate mai della Fiorentina. Lì Firenze la conosce meglio di me, senz'altro tu, Enzo, ma pure Pardo. Insomma. Allora, quando si parla in generale, io ho sempre avuto questo atteggiamento che ha sempre funzionato nella mia vita, io parlo chiaro, leale, con chi ho di fronte dico le cose come stanno. Allora, quando leggo che i Della Valle vogliono vendere la Fiorentina a chi ama la Fiorentina, tutte queste storie, queste diciamo anche ruffianerie, io leggo delle robe tristemente formali che non mi piacciono. Allora, i Della Valle dovrebbero dire: noi la Fiorentina la gestiamo così. Se c'è qualcuno, e quindi vedremo delle belle partite, magari vinceremo con la Juventus, magari una volta perderemo. Perfetto. Insomma, venite allo stadio per godere dello spettacolo. Perfetto. Questa è una società che ha questo tipo di obiettivi. Nel momento in cui capita qualcuno, magari che ha obiettivi più importanti, noi siamo disponibili a trattare, ma non la Fiorentina è in vendita. Capisci che vuoi dire? Questo non vuol dire niente. No, perfettamente d'accordo, credo anche tu. Questo, no? Sì. Quindi a Firenze funziona la schiettezza, poi chiaramente le problematiche ci sono anche ad essere schietti, ma è il contrario della politica. La politica funziona quando è menzognera, no, a Firenze funziona quando la gente ti dice in faccia quello che pensa. Per me è così. Loro quindi dovrebbero cambiare proprio modo di comunicare con quella parte della tifoseria, che poi stiamo sempre parlando di una parte, perché la maggioranza, certo, come chiaro, al solito, è silenziosa, e va allo stadio per godere della partita. Io, per esempio, seguirò sempre la Fiorentina a prescindere. Sono stato a Gubbio in C2, quindi vedete. Grazie Pupo. Ciao. Grazie ragazzi. Grazie, sempre un piacere. Rimane sempre quel tema lì, che comunque poi alla fine c'è una contraddizione fra una storia gloriosa e un presente che, per quanto, perché cioè non può essere Cairo Braccino, Della Valle Braccino, Lotito Braccino, cioè una serie di squadre gloriose, nobili, bellissime, di questa fascia medio-alta del calcio italiano, che hanno una storia enorme e che magari fino a qualche anno fa, pensa alla Lazio di Gragnotti, pensa comunque anche alla Fiorentina, ha fatto cose molto importanti, riuscivano a competere su una base di quasi parità, se beccavano la stagione giusta con le grandi. Oggi non è più così, perché la bolla è scoppiata, però, ma ecco, non è più così, ma ovunque, nel senso, senti, che non è che il Villarreal in Spagna o il Deportivo La Coruña in Spagna, che pure hanno fatto cose grandi nella storia quasi recente, adesso riescano. Faccio un notaio. 51:31 minuti, naturalmente. Dobbiamo chiudere a 56, abbiamo tre ascoltatori. 4 minuti e mezzo, minuto e mezzo ascoltatori. Poi c'è Marino Bartoletti, dopo il GR. Mario, buongiorno, da Roma. Sì, salve. Dica, allora, veloce. Vorrei dire sul caso Donnarumma due cose. La reazione dei tifosi è stata selvaggia, esagerata, lo dico da tifoso milanista. Sì. Seconda cosa, se a un giornalista giovane offrisse un contratto il New York Times, secondo voi andrebbe lì senza curarsi del suo piccolo giornale? Assolutamente. Sì, sì. Quindi penso che sia veramente i modi bisogna riguardarli nel mondo. Assolutamente, però c'è una cosa, c'è una specificità del lavoro del calciatore che va detta, cioè nel calcio c'è il cartellino, nel giornalismo no. Cioè, se io vado alla CNN non è che la CNN deve pagare Mediaset o Radio 24, non ci vado comunque, non mi vuole nessuno. Ma a parte questo concetto, mentre nel mondo del calcio il cartellino ha un peso, ha un valore, a meno che tu non vada in scadenza di contratto. Quindi la realtà è esattamente questa, oppure che tu ti avvicini in scadenza di contratto. Quindi diciamo che esiste una forma di garbo, di cavalleria che porterebbe perché oggi Donnarumma non vale nulla. Oggi Donnarumma fra un anno non vale nulla, se viene venduto adesso vale poco, e quindi lui andasse via adesso dal Milan sarebbe una cosa assolutamente lecita, ci mancherebbe altro, ma non particolarmente bella nei confronti del club che l'ha costruito. Tommaso, veloce, dica. Sì, salve, io su Donnarumma volevo dire che tutti curano, parlano dell'aspetto economico, ma nessuno parla delle lusinghe che può avere questo ragazzo da una squadra che cambia Europa, cioè del Real Madrid. Nessuno lo mette in dubbio. Nessuno lo mette... Va sottolineato, cioè, piuttosto che fare preliminare di Europa League. Cioè, Ma prima o poi ci andrà, perché se è un grande portiere prima o poi ci andrà, Tommaso, le avrà sempre queste lusinghe, se è un grande giocatore come tutti dicono, non solo da Real Madrid. Gian Maria da Milano e poi ci fermiamo per il GR, dica. Sì, salve, buonasera. Una cosa, sulla Fiorentina, io sono tifoso juventino, però ho timore che nel caso in cui veramente della Valle volessero vendere, alla fine si andrebbe incontro al solito papocchio dell'accordata barra investitore straniero, orientale, cinese, che poi alla fine tira fuori una telenovela peggio che il Milan con i cinesi di adesso. Quindi spero che Della Valle abbia fatto giusto così una buttata, tanto per scrollarsi. Sì, lui in realtà ha fatto un appello ed ha ragione Pupo in quello che diceva prima. È chiaro che sono parole evidentemente molto precise che servono a dire all'ambiente di Firenze, soprattutto a chi contesta, guardate che non è che noi vogliamo stare qui a tutti i costi. Se ci sono dei fiorentini con i soldi pronti a intervenire, visto che il retropensiero è tutti amate così tanto questa maglia, venite, intervenite e compratela. Non è un discorso diverso da quello che ha fatto Preziosi al Genoa qualche tempo fa, è il discorso che fanno i presidenti quando sono un po' sotto pressione e un po' stanchi. Scusa, ma d'altra parte, Pierluigi, anche sul Milan, se c'è qualche imprenditore italiano in questo momento pronti a investire nel calcio, non c'è stato. Poi comunque insomma le storie degli imprenditori stranieri, esattamente come le storie degli imprenditori italiani, sono tutto il contrario di tutto, nel senso che ti può capitare quello ricco che voglia investire, può capitare un altro a caso. Allora ci fermiamo per il giornale radio, poi torniamo sempre con Pierluigi Pardo, ci sarà Marino Bartoletti, 800240024 è il numero per intervenire. Siamo tutti convocati. Ma proprio tutti. Tutti convocati. Sono Enrico Ruggeri. Questa settimana storie drammatiche e storie intense al Falco e Gabbiano. Se oggi noi conosciamo e apprezziamo Van Gogh, lo dobbiamo a sua cognata Joanna Van Gogh. Wolfgang von Trips, il nobile che attraverso la sua passione per le auto andò incontro alla tragedia. E poi voliamo sulle ali di carta fino a Verona per l'amore più famoso della storia, Giulietta, con il suo Romeo naturalmente. Un grande poeta, un grande uomo, un grande musicista dalla voce inconfondibile, Leonard Cohen. L'eroica, folle, tragica epopea del bandito Pugachev. Vi aspetto tutti i giorni alle 15.30 al Falco e il Gabbiano su Radio 24. Te vuoi stare seduto in panchina a guardare? O vuoi entrare in campo? Ricominciamo tutti ai vostri posti! E andiamo! Tutti convocati. Turn and turn. con Pardon de las Damas di Gianluigi Pardo. Given to Fly. Ho scelto la mia preferita, cioè, storicamente. What are we talking about? What are we talking about? Sai che noi eravamo qua, Marino Bartoletti era là a Firenze, stava andando in Firenze al concerto dei Pearl Jam con mia grande invidia. Ciao Marino. Buongiorno, un saluto particolare, affettuoso. Un saluto particolare. Bravo, oggi me l'ero dimenticato. Ma sei stato a Firenze Rocks? È un saluto amicale al mio Carletto. Ma hai visto anche Placebo, Aerosmith? No, mi sono limitato a Eddie Vedder, ma devo dire che noi giovani ci siamo molto divertiti. Ma sai che c'è qualche manigoldo che mi scrive: ah, ma quando c'è il tuo maestro Marino Bartoletti non metti mica il Pearl Jam, i Cleo o musica di questo tipo? Ragazzi, ma vi rendete conto delle stupidaggini che dite o che scrivete? Senti, no, visto che siamo sul pezzo, io Paolo Limiti confesso, ovviamente un fatto anche di generazione, me lo ricordo in TV una ventina d'anni fa, insomma, però ha avuto un ruolo importante nella storia della musica italiana, no? Guarda, io ti ringrazio di introdurre questo argomento, sinceramente, perché non lo volevo fare io, perché chiaramente la nostalgia, la malinconia e anche il dolore sono piuttosto forti in questo momento, visto l'amicizia nei confronti di quest'uomo intelligente e sensibile. Ma proprio a Radio 24, pochi secondi prima che andassi in onda voi, ho sentito l'opinione di un esperto che ha detto cose non simpatiche su di lui, e vorrei veramente confrontarmi con questa persona. Parolini è stato un innovatore, cosa che nessuno ha percepito, perché è vero che parlava del passato, è vero che parlava della nostalgia, ma parlava sempre con grande cognizione di causa, offrendo anche le radici della speranza, cioè faceva capire ai giovani quali possono essere i percorsi virtuosi per diventare veramente qualcuno nella storia dell'arte, della musica, di tutto quello che sappiamo. Sì. E questo è un Paolo Limiti, la sua sensibilità, la sua dignità, la sua cultura, la sua capacità di essere amico e tutto quello che è inutile rievocare in questo momento, sinceramente, di dolore. Poi c'è anche un Paolo Limiti, autore, che per quanto mi riguarda bastano le cose che ha scritto per Mina direttamente o indirettamente. Bugiardo incosciente, La voce del silenzio, che in realtà ha scritto per altri, Pensiero Sacundì Sacundà, che era un uomo di grande intelligenza che vedeva molto più lontano di quanto tanti conduttori, fra virgolette, moderni non vedano oggi. Oggi la RAI si attacca alla nostalgia, secondo me, perché forse le mancano un pochino le idee. La nostalgia di Limiti era una nostalgia molto fertile, veramente mi inchino alla sua grandezza. Sono molto addolorato che abbiamo perso un personaggio come lui. Senti Marino, io ti porto su argomenti più prosaici, avrei tre domande per te. Come diceva Liga. Per dirla alla Liga. Allora, la prima è veramente chi prende l'Inter. No, chi prende l'Inter. No. Mi sembra perfetta. No, di questo parliamo dopo. La prima riguarda, abbiamo aperto programma con Italia-Spagna, vuoi non chiederlo a Marino Bartoletti di stasera, con annesso caso Donnarumma, se ne vuoi parlare, perché francamente anche noi non, le parole ci mancano, o meglio, come si diceva in Amici Miei, io ce l'ho ma è meglio che un le dica. No, ma è vero, poi ne abbiamo già parlato, io nel mio piccolo mi sono espresso anche su Facebook, mi sembra che tutti abbiano perso un pochino il senso delle proporzioni su questa vicenda. Prima ho sentito un vostro ascoltatore che diceva: se io fossi un giovane giornalista e mi offrisse il New York Times, eccetera, eccetera, eccetera. Ho sentito Pierluigi Pardo rispondere naturalmente a tono, però non è che Donnarumma sia un giornalista disoccupato al quale offrono un posto al New York Times, è un giornalista che scrive, sempre restando in metafora, su uno dei più importanti giornali d'Europa e che sicuramente, non so se per colpa sua o per colpa di qualcun altro, ha perduto il senso delle proporzioni e della gratitudine. Il problema è che, parlando da padre, non da osservatore di cose calcistiche, io temo che abbia perduto buona parte della sua serenità in questa vicenda, e mi auguro che non sia così. Con la serenità anche forse quello che può essere il suo rendimento, le sue potenzialità. Non c'è nessun giocatore più solo del portiere, ricordiamo. Sì. C'è qualcuno che sembra che voglia fare il suo male, non il suo bene, in cambio di che cosa? Cioè, lui a 18 anni ha vinto alla lotteria quanti? 50, 60, 70 milioni di euro. Non credo che un milione di euro in più o in meno potrebbe cambiare comunque il senso della sua vita. È che dovunque andrà a giocare adesso, sia che resti al Milan, sia che vada altrove, dovrà fare i conti con un clima sicuramente ostile che non lo aiuterà a essere trove di più. Al Milan passa presto, secondo me. È così, perché è così. Sì, sì. Allora, sai, poi è appunto il calcio è liquido, per cui poi se ci dovesse essere la grande riappacificazione, chiaro, qualche mugugno, cioè non è stato uno strappo da poco, però insomma poi no, quando comincia a giocare, quando comincia a parlare. L'errore, ricorderete l'errore che ha fatto di piede quest'anno, piuttosto sì, clamoroso, e naturalmente San Siro ha applaudito, ha sorriso. Sì, passa subito, ecco, passa subito. Potrebbe non succedere una seconda volta. È vero, è vero. Senti, seconda domanda, Vettel Hamilton prima, ieri si diceva, primo scontro a gioco fermo e fallo di reazione nella storia della Formula 1. Io quelle cose lì le facevo nell'autoscontro, devo dire, però sì, avevo 13 alla giostra, anni. Sì. Avevo 13 anni. Allora, Hamilton è un pilota certamente bravo, ma altrettanto arrogante, decisamente molto antipatico. Fa delle cose che vanno ben oltre i limiti della correttezza, sta sapendo di voler danneggiare qualcuno, facendo anche il finto tonto oltretutto. Vettel è un professionista che non può permettersi il calo di reazione, assolutamente, cioè ha fatto una cosa alla Zidane, sì. Poteva pagarla cara, ha compromesso una vittoria, ha in mano i destini di una Ferrari che quest'anno sembra che abbia delle grandi potenzialità, prova a contare, te lo dice uno che non riesce a contare fino a 5, almeno fino a 6 o a 7 quella cosa non la fai, perché purtroppo quella la vedono tutti. Marino, non conti fino a, nemmeno fino a 1, Marino, sai benissimo, ti va giù la catena. A proposito di catena che scende, sì. Valentino Infinito, Pierluigi, ne abbiamo parlato a lungo anche ieri, cioè da quando eravamo bambini lo vediamo lì, tu eri bambino. Sì, sì. No? Sì, io no. No, tu no, io neanche. No, io guarda, io credo che non esista nella storia dello sport, non so se qualcuno ha fatto delle verifiche, un signore che riesce a vincere un gran premio a 21 anni di distanza dal primo. E sono passati 21 anni da quando vinse a Brno per la primissima volta nella 125. Abbiamo speso tutte le parole possibili nei confronti di Valentino, persino Highlander è diventata una parola superata. È incredibile come lui riesca a essere giovane nello spirito e persino nella reiterazione degli errori. Ora Assen è una pista per lui, gli ha sempre portato molto fortuna, l'ha sempre interpretato molto bene, bisogna conoscerla molto bene, lui la conosce molto bene, è stata la prima pista moderna del motociclismo mondiale assieme alle Castelle. Però, porca miseria, se quest'anno perdesse il mondiale per quei 20 punti che ha grazie buttato mano, via due sì. Gran Premi fa, io sono pronto a trifolare no. Gli ebedei di qualcuno. No, ma secondo me invece lì alla fine, Mario, io ti capisco, però lì ha dimostrato di essere un pilota e di avere ancora voglia. Se non avesse fatto quell'errore avesse contato fino a 5, come dicevi tu, cioè, mi sarei venuto. No, ma anche perché in un mondiale così equilibrato, poi a noi magari gli errori di Valentino fanno più male, no? E no, ce li ricordiamo chiaro, di più. Però insomma, tutti hanno perso delle occasioni. Quindi un mondiale molto equilibrato. E come dicevamo ieri, io sono profano, non ci capisco niente, però. Il discorso mi sembra che abbia una sua logica. Se si arriva in volata, cioè se il mondiale non trova un padrone vero nelle prossime 5-6 gare, quindi si arriva poi a 4-5 gran premi dalla fine, tutti lì, l'esperienza di uno come Valentino, no, lo so, però pesa, prendere o lasciare. Tra l'altro, a proposito di grandi rivalità, insomma, sì. Oggi non ne abbiamo parlato, non so se ne è parlato ieri. C'è anche il discorso, ovviamente, di Max Biaggi, i 46 anni compiuti, se l'è vista brutta. Il messaggio sui social, no, non ne abbiamo parlato. Ecco, insomma, voglio dire, sono stati due grandi rivali in maniera diversa. Tutti e due hanno vissuto le giorni speciali. Uno perché ovviamente è tornato a vincere, e l'altro perché, ha vinto una partita che sarà fatta abbastanza complicata. Molto no? Più complessa. Bravo a dirlo. Però, ragazzi, mi fate dire da orgoglioso forlivese che in questo momento in testa al mondiale della MotoGP c'è uno di Forlì. Certo. Dovi. È una bella spezzatura di questo mondiale. Come si dice? Dovizioso. Dovizioso. Marino, grazie, un abbraccio forte. Dire, a proposito di due ruote, che sono molto felice che Aru abbia vinto il campionato italiano di ciclismo e che l'abbia vinto certo. In quel modo. Certo, questa è casa tua. È stata una cosa commovente, noi perdiamo tempo, adesso passatemi la metafora un po' audace, a parlare di Donnarumma, di Raiola, perché lo dobbiamo fare naturalmente, però quello che ha fatto Aru domenica scorsa in Piemonte è una cosa che ci ha massaggiato il cuore. Lo giochiamo domani, buona idea. Grazie Marino. Ciao, un abbraccio. Ciao. Un saluto particolare a Pierluigi. C'era anche quella maglia di scarponi sul podio a a dare ancora più bellezza a quell'immagine lì. Quasi quasi vi saluto in romagnolo. Al saluto. Al saluto. Particolare però per Luigi Pardo. Basta che non ci saluti alla bolognese dicendo andim po spio, come dice Francesco Guccini in una famosa registrazione, che vuol dire non ne posso più. Invece dobbiamo ne può convincere il maestro a riprendere in mano la chitarra. Facciamo una class action. Ma tu che lo conosci, ma organizziamo. Io ho fatto una scena con De Gregori l'anno scorso e spero di farne un'altra. Io Guccini appartengo alla generazione, sono andato in gita al liceo a Bologna apposta per conoscere Guccini, e Guccini era uno che penso lo farà ancora oggi, che se gli bussavi alla porta ti apriva. Ancora oggi. Benissimo. Ancora allora, andiamoci. Solo che ti offre anche da bere. Ti offre anche da bere. È anche uno che è riuscito a chiamare un disco col suo indirizzo di casa. C'è cioè una cosa meravigliosa. Craffene boiate, le ore stanche sono volate. Grasso l'autobus mi insegue lungo il viale. Grazie, Marino. Uno grazie. Dei tre maggiori poeti italiani viventi. Assolutamente. Ciao, Marino. Ciao, alla prossima. Ciao. Ciao. Un pugno in faccia verso cui tendo le braccia, soffia il mondo fuori porta, San Vitale. C'è Marchetti? No, c'è Mauro. Ah, c'è Milano. Mauro. Marchetti Mauro arriva. Diga. Mauro? Hanno ragione. Mauro da Milano? Mauro hanno ragione. Beh, andiamo avanti. Io metto mi un disco. Detto vecchio. Metto tutto disco quello parlo. Che lei non fa. C'è problema. Mauro? Sì. C'è sta? Non c'è sta? Pronto? Il signor sorpresa. Mauro, come va? Buongiorno. Buongiorno. L'abbiamo chiamata 10 volte, non ci rispondeva, eravamo preoccupati. No. Dica. Superiamo questa impasse, Mauro, diciamoci qualcosa, anche qualcosa di generico. Pronto, ma sento anche delle... Che sente? Delle voci? Delle voci strane che arrivano da... Da dove? No, volevo parlare un attimo della nazionale di Di Biagio come allenatore, come lo vedete voi, mi sembra... Non so, sente delle voci strane. Questo Di Biagio lo vediamo bene, meglio se vince stasera. Sente delle voci strane, Mauro. Sarà la voce di Luca Marchetti. Ma Mauro, però l'abbiamo perso così. No, l'abbiamo perso perché sentiva delle voci Luca strane. Luca Marchetti, come stai? Che ci dici? Niente. Ma tu ti fai per Petrucci nel moto mondiale? Nel MotoGP? Beh, evidentemente sì. Perché evidentemente comunque sì. Orgoglio ed Eterni, conterraneo, conterraneo, concittadino. Grande Petrucci. Io pure tifo abbastanza Petrucci. Mi piace proprio perché sì, perché questo a me quell'accento lì mi fa impazzire. Quello... Perché mi ricorda la Ciriola. Io ho un debole per la Ciriola. Pensavo mi ricorda Luca Marchetti. La Ciriola è proprio. Adesso Marchetti, poi togliermi. No, adesso però è una gran... Non può ricordare una persona, un piatto è più facile. Esatto, no, ma la Ciriola sì, rappresenta lui proprio di pietra, la ternanità. Invece no, perché è un piatto di una semplicità, acqua e farina, no? Giusto? Sì, confermo. Di una confermo. Semplicità, e spesso viene anche mangiato con dei sughi abbastanza poveri, no? Non è, insomma, non è che... Beh, la Ciriola alla Ternana e con il pomodoro piccante. Ecco, basta, quindi, sì. E rappresenta lo spirito di questa città, insomma, orgogliosa e molto, molto semplice, no? Nei modi sì, e... Sì. Però altrettanto buona. Appunto. Senti, mi è venuta fame. Scusa, posso parlare con Luca Marchetti di Ciriole? No, di mercato. No, sento delle voci anche io. Senti delle voci. Sento delle voci. Domanda preliminare, Luca. Sì. Oggi ne abbiamo 27, mi pare. Non lo so. Quanti ne abbiamo oggi? Più o meno 27. Sì, 27, confermo. Confermi. Il 30 è dietro l'angolo. Che fa l'Inter? Vende e compra. Oggi vende e compra Caprari alla Samp, nell'operazione Skriniar. Sicuramente Banega al Siviglia. 9 milioni? C'è, 9. Sì, attenzione a Jovetic, perché oltre al Siviglia c'è anche la Roma. In realtà il Siviglia non lo vorrebbe prendere Jovetic, perché si sono fiondati su Muriel, 22 più 6. E quindi la pista Roma si potrebbe scaldare. Ma per ragazzi, Jovetic. Banega Jovetic, non lo so, boh, mi sembra... Ma ne serve un 50, No, dico, no, no, tutti ne serve un 30. Ne serve un 30, va bene. E poi quindi, serve dopo... un 30 e poi dopo ci saranno delle operazioni minori, ma comunque vitali per l'Inter, tipo quelle con il Genoa o ancora con la stessa Samp, per qualche giovane o qualche ragazzo di belle speranze, tipo Puskas, tipo Biabiani, che tanto più giovane non è, o qualche ragazzo dell'universo Inter che può servire per arrivare a questi famosi 30 che servono per mancano tre giorni. Senti, con calma. Çalhanoğlu, che fine fa il signor Çalhanoğlu? Prima offerta del Milan ritenuta bassina dal Bayern, 15 più bonus, il Bayern chiede 30, quindi diciamo che la trattativa potrebbe anche essere piuttosto lunga, a meno che la prima richiesta del Bayern non sia stata, come a dire, la prima sparata per vedere poi che effetto faceva. Auf Wiedersehen, un Klaulisch. No, no, sì, io sì, credo certo. Che invece alla fine... 20-22 li vale, però, giocatore sì, c'è. Sì, sì. Io credo che l'offerta del Milan sia stata una provocazione, la prima provocazione lanciata dal Bayern Leverkusen sui 30 di valore. Sì, però a me sul Milan interessa di più il caso Bigne, perché c'è di mezzo lo Tito. Dare soldi e vedere Cammello. Questa va avanti fino al 30 agosto, io te lo dico. Non credo. Perché a un certo punto il Milan cambia obiettivo. Dici? Può prendere Krikoviac in prestito al Paris Saint Germain, non è lo stesso tipo di giocatore. Appunto. Però la qualità te la metto con Çalhanoğlu. Sì, per dire. Sì, cioè, sì. Però cambio un po' strategia. Sì, però l'esperienza. Per il Milan, l'esperienza. Biglia è il giocatore. È un giocatore sono fondamentale. Sono d'accordo con te. Però a 31 anni è scadenza di contratto. Ragazzi, Biglia è, per la Lazio è, secondo me, non difendibile. Nel senso che giocatore straordinario. Un conto è se rinnova con felicità, decide di fatto quasi di chiudere una carriera a un certo livello alla Lazio. Ed è una scelta che ci può stare, perché insomma la Lazio, nonostante un certo scetticismo che c'era, e quest'anno non c'è, quest'anno c'è grande entusiasmo, è un progetto comunque importante. Ma se non è così, va venduto. Cioè non, puoi tirare un po' la corda. Ma tu prendi un giocatore scadenza 20 milioni. Però lo Tito ha sempre venduto al prezzo che voleva lui. Lo Tito è bravo, in questo è bravo, insomma, sappiamo, conosciamo pregi e difetti del signor Lo Tito, sicuramente nelle trattative è bravo. Milan. Senti, invece, ma anche quella con Candreva ha fatto un milione di euro di sconto. Karsdorp, il signor Karsdorp è atterrato. Con fidanzata stamattina? Penso di sì. Perché sai che c'era molto entusiasmo sulla fidanzata. Io non l'ho mai vista. Neanche io. Adesso, anzi, vado su Google. Gelato. Fidanzata Karsdorp. Con la K si scrive. Sì, non lo so. Grazie. Sei scusato. No, te lo dicevo altre volte. Fidanzata Karsdorp, ecco. È arrivata a Roma. Com'è? Mi fido del giudizio di parte. Ragazzi, le scrivi là, Pier, la stai guardando tu. Guarda, sto vedendo una foto che non si apre, fra l'altro. Bionda Mora? Direi Mora, ma la foto è un po' tagliata. Okay. Aspetta un attimo, non si riesce a aprire una foto. Aspetta, forse. Mauro da Milano. No, è diciamo generosa. Generosa, diciamo, è formosa. Formosa. Basta. C'è anche una foto nella quale viene sollevata come l'Europa League, praticamente. Grazie. Luca Marchetti Onas. Ah, e c'è un'altra foto. Ma l'avete vista questa foto? No. De Luca, ma questa foto qua con la. Quello che ha preso il Napoli, Onas. Onas. Com'è? Serve al Napoli. È un buon giocatore, che 10 fa? Milioni di euro. Bordeaux, esterno offensivo. No, non è poco. Esterno offensivo, però, un altro, collezione. Lo voleva anche a Roma, esterno, lo so. Però alla fine Mertens giocherà a centravanti quest'anno. Senza dubbio. Ci già questa notizia. Senti, ma Ibra, perché Ibra che fa? Tu lo sai? No. Fai lo scoop mondiale, se mi dici dove va Ibra. Credo che ad oggi non lo sappia neanche lui. E che non ci sia tutta questa fretta, visto che è infortunato. Certo. L'unico che ha fretta credo che sia per la prima volta in carriera Ibra. Sì. Vabbè, chiudiamo la puntata con queste suggestioni. Andiamo tutti a vedere la fidanzata di Karsdorp, che è vista solo Pardo di questa chiacchierata. Tra l'altro ho beccato in una delle varie foto cercando fidanzata Karsdorp, ho beccato il mio amico Serafini dell'ufficio stampa della Roma che stamattina. Non è esattamente, Lorenzo, non ti offendere, grande appassionato della scena indie romana, però insomma siamo un po' amici e non sai proprio come la Vabbè, ciao ragazzi. Fidanzata formosa. Grazie Luca. Ciao. A noi piace il genere skinny, vero? Vero Marchetti? Pier, basta così. Ma anche perché non ho più tempo, se no andrei avanti. Pier, ci sentiamo domani dalle 3:30. Sì, domani c'è una complicata. Va bene. Giro per la capitale. No problem. Grazie. Saluti. Giorgio De Luca, nostro autore, Gianmarco Ferronato. Non c'è Gianmarco Ferronato. Edoardo Lavezzari in redazione. E il regista è bravissimo con la barba, ma non mi ricordo il nome. Ciao. Abbiamo visto abbastanza. Ciao a tutti. Saluti.